America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ieri, 15 aprile 2013, un nuovo attentato contro l'America, un attentato che avrebbe potuto fare forse molte più vittime di quelle che ci sono state. Eppure bastano i 3 morti, bastano le centinaia di feriti per darci la misura di una tragedia americana. Non è chiaro se sia un attacco di matrice esterna o interna. Quello che è certo è che in una giornata di sole, non molto diversa da quella dell'11 settembre del 2001, in una giornata di festa, perché poi ieri era il Patriots Day, una grande festa per la libertà degli Stati Uniti, una festa della rivoluzione del 1775, un'altra grande festa di Boston, appunto, la maratona, 26.000 iscritti. Ecco, questa era l'atmosfera fino alle 3 del pomeriggio, poi sulla linea di arrivo di questa 117esima edizione di quello che è uno degli eventi sportivi più seguiti del mondo, le bombe. Ecco con me i microfoni di America 24, un testimone oculare di quello che è successo a Boston, Fabrizio Dembek del gruppo Terra Mia, uno dei gruppi che ha portato dei maratoneti italiani a Boston. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Salve. Dunque lei era vicinissima alla linea di arrivo, ci dica che cosa è successo, cosa ha vissuto, cosa ha sentito. Ma io praticamente ero 50 metri dopo l'esplosione, ci sono state queste due forti esplosioni, poi tutta la gente che scappava, purtroppo mi trovavo nel luogo peggiore perché ero proprio tra la linea d'arrivo e la tenda medica dove arrivavano tutti i feriti, quindi tutte le barelle passavano davanti a me. Ho visto delle scene che non posso raccontare perché una cosa incredibile, insomma, praticamente pezzi di carne, cioè gambe, insomma di tutto, insomma preferisco proprio non raccontare, non entrare nei particolari perché sono scene abbastanza scioccanti. Ecco, lei a un certo punto vede Lorenzo Doni, che è uno dei vostri atleti, che stava avanzando nel momento dell'esplosione. Ce lo racconti? Nella CNN si vede proprio la scena dell'esplosione e Lorenzo stava passando in quel momento, abbassa la testa, si gira, proprio in quel momento stava passando sotto la linea d'arrivo. C'erano i parenti che erano proprio sul marciapiede tra le due esplosioni. È andata bene perché erano proprio vicinissimi al luogo dell'esplosione. Beh, un miracolo, direi un miracolo, perché potevano essere 10 metri più in là e restare coinvolti in questo drammatico attentato. È un miracolo perché poteva veramente, tra l'altro c'erano questi altri due ordigni che erano inesplosi, no? Quindi sì, perché il totale, diciamo, la conta totale degli ordigni era che ce n'erano 5, c'è stata poi un po' di confusione, sembrava che a un certo punto uno degli ordigni fosse esploso alla JFK Public Library, sì, che è lì vicino, e si era diffuso questa paura, sembrava che Boston fosse sotto attacco, e poi si sono trovati altri due ordigni che invece sono stati disinnescati, quindi poteva essere davvero una strage ancora più vasta di quella che è stato. Certamente, naturalmente il problema per i nostri maratoneti è che bloccando la maratona loro ci sono trovati naturalmente al freddo, perché comunque c'era vento, faceva freddo e non potevano muoversi, insomma, perché non lasciavano muovere nessuno. Altri addirittura che erano a 10 km prima dell'arrivo li hanno portati dentro una chiesa, qualcuno è stato lì per ore perché erano chiusi i ponti della città, perché naturalmente la polizia aveva chiuso tutte le strade di accesso. America 24. Riprendiamo con le testimonianze dirette di due italiani che erano presenti ieri a Boston durante il tragico attentato alla maratona. Buonasera, sono Marco Cincola da Boston. Dunque, lei, e da quel che abbiamo sentito, stava passando la linea del traguardo nel momento in cui c'è stata l'esplosione. Io avevo appena passato la linea del traguardo, all'incirca erano circa le 14.45, 14.50 ora locale, e appena ho passato la linea del traguardo stavamo facendo le foto di rito, quindi quando si sentono queste due enormi esplosioni con un tonfo secco abbastanza sordo, immediatamente si è elevato del fumo e sono apparse anche delle fiamme. però questa esplosione riguardava la parte delle gradinate e delle transenne, quindi si è capito che il fumo veniva fuori dalla parte praticamente del pubblico, degli spettatori che erano tutti assiepati sulla linea del traguardo. Non riguardava proprio la linea del traguardo dove passavano gli atleti con il tempo per cronometrare. Quindi... E poi c'è stata la seconda esplosione? E poi c'è stata la seconda esplosione, ma a distanza brevissima, diciamo al massimo di 6-7 secondi. Ma scusi, la seconda esplosione è avvenuta nella stessa zona dove è venuta la prima o da un'altra parte, un po' più in là? Nella stessa zona, praticamente il fumo si è elevato nella stessa zona, sia per la prima che per la seconda esplosione. Immediatamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto, si sono sentito subito volteggiare gli elicotteri, i vigili del fuoco con le sirene spiegate, diverse macchine autoambulanze e diverse macchine anche private con i vetri oscurati che presidiavano la zona. Dopo siamo andati a fare un giro anche a serata inoltrata verso le 19:30, era ancora tutto il centro bloccato, tutto presidiato anche dalle forze dell'ordine e dai militari in divisa, proprio in assetto, proprio tipo Navy SEAL. America 24. Signora Mandrioli, lei era in mezzo alle due esplosioni, ci hanno detto. Sì, esattamente, eravamo con due amiche proprio al traguardo tra le due bombe, diciamo, e abbiamo subito, appena esplosa la prima, capito che si trattava effettivamente di una bomba, perché l'odore della polvere da sparo era fortissimo. Il tempo di neanche capire questo, è esplosa l'altra e dopo c'è stato naturalmente un fuggi-fuggi generale. Ma signora, scusi, lei perché era a Boston? Era andata a seguire qualcuno? Io sono mio marito, sì, certo, tra l'altro il panico è stato proprio che mio marito era circa come orario prevedibile in arrivo, e quindi io non sapevo assolutamente se lui era coinvolto in questa cosa, perché... E come si è sentita in mezzo a queste? Cosa ha pensato in quei momenti? Cosa pensa una persona che sente le esplosioni intorno? È una cosa che oltretutto non abbiamo solo pensato, abbiamo anche visto, perché abbiamo visto un bambino portato via con insanguinato, che poi abbiamo saputo anche che è deceduto. Quindi sono momenti veramente da non dire. Ecco. Quindi lei ha visto proprio questo bambino, che è una delle due vittime di cui parla tutta l'America, ecco. Quindi dove era stato colpito? Era fuori conoscenza? Ha seguito la... Alla testa, ma adesso noi non eravamo, diciamo, sopra il bambino, abbiamo visto a distanza, faccia conto di 20 metri, ecco, l'abbiamo intravisto in mezzo alla folla, che oggi siamo resi conto che stava succedendo qua. Poi ti ripeto, la polizia ci ha mandato via subito, abbiamo abbattuto tutte le transenne. E in quei momenti non c'è probabilmente il tempo di pensare o di avere paura. Ha avuto paura, signora? Abbiamo avuto paura, perché poi fortunatamente avevo le amiche che mi hanno un po' confortato, perché ripeto, io oltre alla paura che ho vissuto in prima persona, pensavo anche a mio marito, che era sapevo che era addirittura d'arrivo anche lui, e non sapevo esattamente a che punto appunto fosse già arrivato. Poi sono stata fortunatamente tranquillizzata, ma circa mezz'ora dopo che ho raggiunto il posto dove diciamo così, davano le informazioni, erano collegati in tempo reale su quelli che erano i tempi dei vari partecipanti, e in base al numero di pettorale ho potuto sapere che mio marito era ancora a un miglio rispetto al punto in cui hanno poi bloccato tutti gli arrivi dei partecipanti alla maratona. Ecco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili. Per esempio, avrei potuto darvi i dettagli della chiusura della borsa, la giornata non è stata positiva, alla fine gli indici hanno chiuso con cadute tra l'1,70% e il 2,34%, dunque una brutta giornata. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, è una giornata particolare, i tempi cambiano quando succede un evento di questo genere in qualunque paese, in qualunque nazione, in qualunque momento, e dunque dedichiamo questa canzone alla città di Boston, ai tempi che cambiano e cambieranno per il paese, con Bob Dylan, Times Are A-Changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Da New York che tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.